Demetrio, avendo appreso che Nicanore era caduto in battaglia e il suo esercito distrutto, decise di inviare di nuovo Bacchide e Alcimo nella terra di Giuda, alla testa dell'ala destra dell'esercito. Questi presero la strada di Galgala e vennero ad accamparsi a Mesalot, nell'Arvela. La occuparono e fecero perire molte persone. Nel primo mese dell'anno 152 posero il campo a Gerusalemme, poi partirono e andarono a Berea con 20.000 uomini e 2.000 cavalieri. Giuda intanto si era accampato ad Elasa con 3.000 uomini scelti. Come videro quella grande moltitudine di forze, ne ebbero grande paura e molti fuggirono dal campo, non rimanendo che 800 uomini. Giuda allora, come vide che il suo esercito si era disciolto mentre la battaglia incalzava, ebbe una stretta al cuore perché non aveva più tempo di radunarli. Avvilito disse a quelli che erano rimasti: «Leviamoci e marciamo contro i nostri avversari, semmai possiamo combattere contro di essi». Quelli però lo dissuadevano dicendo: «Non possiamo, ma ora salviamo piuttosto le nostre vite, poi ritorneremo con i nostri fratelli e combatteremo contro di loro. Siamo così pochi». Giuda replicò: «Non sia mai che io faccia una tal cosa, fuggendo davanti a costoro. Se la nostra ora è arrivata, moriamo con coraggio per i nostri fratelli e non lasciamo un motivo d'accusa per la nostra gloria». L'esercito nemico uscì dal campo e i giudei si disposero per affrontarlo. La cavalleria era divisa in due parti. I frombolieri e gli arcieri procedevano davanti all'esercito e in prima fila stavano tutti i più forti, mentre Bacchide era all'ala destra. La falange si avvicinò dalle due parti, suonando le trombe. Quelli di Giuda fecero risuonare anch'essi le trombe. La terra tremò per il fragore degli eserciti e la battaglia durò dal mattino fino alla sera. Giuda vide che Bacchide e il forte dell'esercito erano dalla parte destra. Allora si radunarono attorno a lui tutti i più coraggiosi e l'ala destra per loro mezzo fu battuta e li inseguirono fino al monte di Asdod. Quelli dell'ala sinistra però, come videro che l'ala destra era stata battuta, si voltarono sui passi di Giuda e dei suoi, stringendoli alle spalle. La battaglia si fece aspra da una parte e dall'altra e molti caddero trafitti. Giuda cadde e gli altri fuggirono. Jonata e Simone allora raccolsero Giuda, loro fratello, e lo seppellirono nel sepolcro dei suoi padri, in Modin. Tutto Israele lo pianse e fece un grande lutto su di lui, ripetendo per più giorni questo lamento: «Come è caduto il forte, lui che salvava Israele?» Il resto delle azioni di Giuda, delle sue guerre, degli atti di valore da lui compiuti e della sua grandezza, non è stato scritto. Erano infatti troppo numerose. Dopo la morte di Giuda, i senza legge riapparvero su tutto il territorio di Israele e tutti gli operatori di iniquità si risollevarono. In quei giorni poi vi fu una fame assai grande e il paese passò dalla loro parte. Bacchide da parte sua scelse uomini empi e li costituì signori della regione. Questi ricercavano gli amici di Giuda e rintracciatili li conducevano da Bacchide, il quale si vendicava su di essi e li scherniva. Fu una grande tribolazione per Israele, quale non vi era stata mai dal giorno che non era più apparso un profeta in mezzo a loro. Si riunirono perciò tutti gli amici di Giuda e dissero a Jonata: «Da quando tuo fratello Giuda è morto, non vi è uomo simile a lui per uscire ed entrare contro i nemici e Bacchide e contro quelli che sono ostili alla nostra gente. Ora perciò noi eleggiamo te al suo posto, nostro capo e duce per combattere le nostre guerre». Così Jonata, in quello stesso giorno, assunse il comando e si levò al posto di Giuda, suo fratello. Quando lo seppe, Bacchide cercava di ucciderlo, ma Jonata, Simone, suo fratello, e tutti quelli che erano con lui lo seppero e fuggirono nel deserto di Tecoa, accampandosi presso l'acqua della cisterna di Aspar. Bacchide lo riseppe in un giorno di sabato e anch'egli andò con tutto il suo esercito al di là del Giordano. Jonata mandò suo fratello, capo della turba, a chiedere ai nabatei, suoi amici, di poter deporre presso di essi il loro bagaglio, che era abbondante. Ma da Madaba uscirono i figli di Iambri, catturarono Giovanni con tutte le cose che aveva e se le portarono via. Dopo questo fatto fu riferito a Jonata e a Simone suo fratello. I figli di Iambri celebrano un grande sposalizio e da Nadabat accompagnano la sposa, figlia di uno dei più grandi signori di Canaan, con grande pompa. Si ricordarono allora del sangue di Giovanni loro fratello e andarono a nascondersi al riparo di un monte. Alzarono i loro occhi per osservare, ed ecco, tra un vocio confuso, un grande corteo con lo sposo, i suoi amici e i suoi fratelli, che muovevano incontro a quelli con tamburi, strumenti musicali e arnesi in quantità. Si gettarono allora su di essi dal loro nascondiglio e li massacrarono. Molti caddero trafitti e gli altri fuggirono verso la montagna. Essi perciò ne raccolsero il bottino, e così lo sposalizio si cambiò in pianto e il suono dei loro strumenti musicali in lamento. Avendo in tal modo vendicato il sangue del loro fratello, se ne tornarono alla palude del Giordano. Bacchide, avendolo saputo, andò anch'egli in giorno di sabato fino alle rive del Giordano con un grande esercito. Jonata disse a quelli che erano con lui: «Leviamoci e combattiamo per le nostre vite, poiché oggi non è come ieri e l'altro ieri. Ecco infatti i nemici davanti e di dietro, l'acqua del Giordano da una parte e dall'altra, e poi la palude e la boscaglia, sicché non vi è possibilità di ritirarsi. Ora dunque, gridate al cielo affinché possiate salvarvi dalle mani dei nostri nemici». Si attaccò battaglia, e Jonata stese la mano per colpire Bacchide, ma questi gli sfuggì piegandosi indietro. Allora Jonata balzò con i suoi nel Giordano, e a nuoto raggiunsero l'altra parte. Gli altri però non attraversarono il Giordano dopo di loro. In quel giorno caddero circa 1000 uomini di Bacchide. Bacchide tornò a Gerusalemme, fece costruire molte fortificazioni nella Giudea, ossia le fortezze di Gerico, Emmaus, Bet-Coron, Betel, Tamnata, Piraton e Tefon, con alte mura, porte e sbarre, e vi pose guarnigioni per infierire contro Israele. Fortificò ancora la città di Bet-Sur, di Gezer e Lacra, e vi pose presidi e provviste di viveri. Prese inoltre i figli dei capi della regione come ostaggi, e li pose sotto custodia nell'Acra, a Gerusalemme. L'anno 153, nel secondo mese, Alcimo comandò di abbattere il muro del cortile interno del santuario, distruggendo così l'opera dei profeti. Fu iniziata l'opera di demolizione, ma in quel tempo Alcimo ebbe un colpo e la sua opera fu interrotta. La sua bocca si chiuse e restò paralizzata, così che non poté più articolare parola e impartire ordini riguardo alla sua casa. Alcimo morì in quel tempo con grande spasimo, e Bacchide, appena vide che Alcimo era morto, fece ritorno dal re, e così la terra di Giuda rimase tranquilla per 2 anni. Tutti gli iniqui tennero questo consiglio: «Ecco, Jonata e i suoi vivono nella calma con fiducia. Facciamo dunque venire Bacchide, ed egli li prenderà tutti in una sola notte». Andarono a consigliarsi con lui, ed egli si mosse per venire con un grosso esercito e inviò in segreto delle lettere a tutti i suoi fautori in Giudea affinché catturassero Jonata con i suoi. Non vi riuscirono perché il loro disegno fu svelato. Anzi, questi catturarono una 50 di uomini della regione che erano stati istigatori di tale iniquità e li uccisero. Dopo di ciò, Jonata con Simone e i suoi si ritirò a Betbasi, nel deserto, ne riparò le rovine e la fortificò. Quando lo seppe, Bacchide radunò tutta la sua gente e ne informò quelli della Giudea. Poi venne a porre il campo contro Betbasi e l'assediò per molti giorni facendovi costruire anche macchine. Jonata, intanto, lasciato suo fratello Simone nella città, uscì per la regione percorrendola con pochi uomini. Batté Odomera con i suoi fratelli e i figli di Fasiron nelle loro tende, iniziando in questo modo a colpire e a salire in potenza. Anche Simone e i suoi uscirono dalla città e incendiarono le macchine. Affrontarono Bacchide, che fu da essi sconfitto, e gli inflissero una grande umiliazione. Il suo disegno, infatti, e il suo intervento erano stati resi vani. Fortemente adirato contro gli uomini senza legge che gli avevano consigliato di venire nel paese, ne uccise molti e decise di partire per la sua terra. Jonata, appena lo seppe, gli inviò messaggeri per concludere con lui la pace e perché fossero loro resi i prigionieri. Accettò, facendo secondo le sue parole, e gli giurò che non avrebbe cercato più di fargli del male per tutti i giorni di sua vita. Gli restituì i prigionieri che aveva catturato in passato nella terra di Giuda. Poi, voltatosi, se ne andò al suo paese e non pensò più di tornare nel loro territorio. Così si riposò la spada in Israele e Jonata si stabilì a Michmas. Ivi, Jonata cominciò a giudicare il popolo e fece sparire gli empi da Israele.